stanco di me, stanco di tutto, stanco di questi giorni che si piegano su me, stanco di chi mi scalda il letto, di causa effetto, di slealtà e di banalità. Mi stendo di sonnifero tra un po', almeno dormirò. Traverserò strade che ho perso, zone scordate che non so e voglie che non ho, e troverò anime sparse in questa nebbia densa che non ci si vede più. Un giorno tutto questo cambierà e l'anno zero andrà. Zero andrà, yeah. Oh. Io ti vorrò, anche se sbagli, e se la tua diversità a te mi legherà. Una fottuta guerra non verrà, soltanto qualche schiaffo alla realtà. Oh, se l'anno zero andrà, e l'anno zero andrà, hey, oh. Ed una nuova luce squarcerà un cielo che nessuno ha visto mai. What's up?